Sono le 7:12 secondi. Oggi è martedì. Direi che è martedì 15 gennaio 2008, l'anno della svolta. La voce che arriva nelle vostre orecchie, probabilmente ancora otturate dal cerume notturno, è la voce del DJ. Che schifezza, veramente. Che inizio proprio così. È la voce dell'Ariele. Ciao. Promessa della radiofonia italiana. Pronta a condurre. Così, tanto per dirne. No? Affascinante promessa della radiofonia italiana. Pronto a condurre con garbo la puntata numero 161 della colazione che serviamo in diretta sulle frequenze di Rock FM. Si chiama Pane Burro e Rock and Roll. E questo è il nostro siglone. Un siglone promettente. Ah sì. Buona giornata amici ed amiche. Bentornati. Pane, burro e rock and roll. La città è pronta ad accogliervi. La tua colazione rock. E noi serviamo la colazione rock. Pane, burro e rock and roll. Che è pane, burro e rock and roll. Ciao Spadino. Ciao trombetta. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Due ore di buon rock and roll e di cialtronerie a go go, garantite da me, dalla nostra redazione e soprattutto dal re del rock demenziale, Roberto Fricantoni, dalle file degli Schiantos, anche quest'oggi per le solite cose, l'almanacco del giorno che fu, le nostre telefonate, le varie rubriche che ci inventeremo man mano nel corso di questo martedì, che sarà ricco di sorprese. Vedo già dalla mia scaletta che un paio di stupidate nuove le facciamo, via. Fa sempre piacere, no? Avrei da affrontare anche l'argomento Andrea patentato 147, quello degli impiegati all'ascolto e delle loro suonerie aziendali rock. È un po' ingestibile la rubrica, perché io ho qua tre fogli a quattro stampati con le vostre testimonianze. Dovessi decidere di mettermi a leggerli, faccio mezz'ora solo di suonerie, che è un bel casino. Intanto rinnovo l'appello agli amici della prima ora. Ci stavamo chiedendo ormai quasi da una settimana se voi possessori di un telefono aziendale avete una suoneria rock. Era così, per il reparto sfatiamo il mito. Sfatiamo il mito che i rocker sono brutti, sporchi e cattivi. Scusate, rido perché ricevo questo sms in diretta. O smetti di fare serate in giro o smetti di dire che sei affascinante, ti hanno visto. Perché dico spesso che sono affascinante? Oh, uno lavora in radio anche per questo, no? Perché poi là fuori uno ci crede anche. Cosa sei, invidioso? Iniziamo belli oscuri quest'oggi. Dalla Milano, dalla quale vi parlo, decisamente ancora oscura e bagnaticcia. Ci spariamo un bel Love Tears Us Apart, Joy Division. Ci facciamo? Facciamoceli, dai. When routine bites hard and ambitions are low and resentment rides high but emotions won't grow and we're changing our ways taking different roads. Why is the bedroom direttamente dall'inferno nelle vostre orecchie, Joy Division, Love Tear Us Apart. Che inizione, vi curiamo noi con la buona musica, 2 ore a nostra disposizione. So che poi purtroppo per quel maledetto ascolto frazionato mattutino magari non seguite tutta la colazione, allora io caldeggio come sempre la possibilità di riascoltare questa trasmissione radiofonica anche su RadioRockFM.com, dove trovate le puntate in streaming, oppure trovate il podcast tutto tagliuzzato senza le canzoni, con le stronzate mie e di Roberto Fricantoni. Il nostro lampione crepuscolare è lì pronto a vegliare su di noi, ma anche su di voi, cari amici, cari gruppi d'ascolto inchiodati alle vostre autoradio, nella speranza di sentire un po' di buon rock and roll e niente di più. Vi ricordo le coordinate, guarda un po' te che strano. Un numero di SMS che è il 335-100-7777. E una casella di posta elettronica che è ariel@radiorockfm.com. Noi siamo sempre pronti, sia io che la redazione, ad appuntarci i vostri numeri di telefono quando volete segnalare qualcosa di fondamentale nella ricerca continua e spasmodica della possibilità di essere dei veri rocker in questo inizio 2008, l'anno della svolta. Direi che siamo a metà della nostra pagina dei Ramones. Dico così e mi capiranno chi possiede un calendario 2008, l'anno della svolta. Devo salutare, aspetta che devo trovare la mail. Per forza, glielo devo il saluto. Il buon Bonnie. Bonnie, ma se sei di Milano, facciamo che te lo porto io a casa, proprio così. È colui che ha scritto più mail ad ariel@radiorockfm.com, senza ovviamente risposta. Richiedendo il calendario. Bonnie, devi venire a una festa. I calendari li smazziamo alle feste. Perché la spedizione è un po' una roba troppo complicata per noi, così, rocker della prima mattina. Siamo un po' incasinati. Temporeggiavo bevendo spuma, attendendo l'arrivo del buon Frick che mi sta passeggiando sotto la pioggerellina milanese per raggiungere i nostri studi. La redazione gli ha già preparato l'almanacco del giorno che fu, quindi direi ci gustiamo insieme questa Sex and Candy dei Mers Playground, poi ci tuffiamo di testa in questo 15 di gennaio. Hanging round London, downtown by myself, and I had so much time to sit down and think about myself, and then there she was, like double cherry pie. Yeah, there she was, like disco superfly. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. Hanging around downtown by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was, in platform double suede. Yeah, there she was, like disco lemonade. Yeah. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. I smell sex and candy here. sat lounging in my chair. Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Dear. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this must be my dream. Beh, adesso sì che questa maledetta trasmissione ha un suo perché, grazie all'arrivo di Roberto Fricantoni anche quest'oggi nei nostri studi. Buona giornata, maestro. Ah, che bella introduzione, grazie, come sono contento di essere in questo gabbiotto con lei. Siamo contenti noi di averla rinchiusa in questo gabbiotto. Ma no, non dico così, sono più contento io. Saranno contenti loro là fuori invece di scoprire cosa è accaduto nella storia il 15 di gennaio. Ah, sì, il 15 di gennaio, ma del 1759. Parte a botto. Ma naturalmente, perché le notizie culturali, diciamo la verità, mi competono. 1759, diceva? Il British Museum, lei l'ha mai frequentato? Ah, certo, parecchie volte. Io sono abbonato, vero? Sì. Di Londra, a Londra, vado tutte le settimane. È British. Molto British. Beh. Apre finalmente al pubblico. Prima era solo per noi, ma elite. Nel 1759. Naturalmente. Le ricordo che io sono immortale. Un'altra ricorrenza, 1892, James Naismith pubblica Le regole della pallacanestro. Ah, le so tutte, le sì, so ovvero, tutte. Il pallone si prende con. Il pallone si prende con. Le mani. Le mani, si rimbalza e si tira a. A bomba. No, a canestro, un'altra cosa, va bene. 1945 viene fondata l'agenzia di stampa. Ansa. Grazie alla quale abbiamo la rubrica di Pane, Burro e Rock'n'Roll, Le ansie in ansia. Esatto, le ansie in ansia, ovvero raschiamo il fondo del barile. Quando nel 1974, scusi, me lo lasci dire, compiono 34 anni Jeff Fonzarelli, Spadino come il nostro regista, Sottiletta, come si chiamava il rosso, quello che adesso è messo un po' male, chiediamo Ricky Cunningham, Lumi, Isaac Rizzi, Happy Days. Debutta sulla rete televisiva ABC, sì, ma amici, che ignoranti, chi? Non sono questi della rete televisiva, non sono andati più avanti, dopo la C lo sanno tutti che viene l'altra lettera dell'alfabeto, al momento mi sfugge, ad ogni modo bisognava terminare con l'alfabeto, Sì, no, invece terminiamo con una notizia italiana. Era il 15 gennaio del 93 quando viene catturato e arrestato il boss latitante Salvatore Riina, latitante addirittura dal 69, era. Sì, grande sì, arresto. Sa cosa disse nel suo primo intervento davanti alla giuria? Non ricordo. Disse basta. Pressa poco, vi siete sbagliati. Io sono un uomo d'onore. Sono un uomo modesto, sono un contadino. Esatto, Maru. Vi siete sbagliati. Ci ascoltiamo un disco? Ma no. Continuiamo a fare questo esercizio molto siculo. 1, 2, 3. Ripetiamo. 1, 2, 3. Ottimo. mentre il buon Santana smanetta sulla sua sei corde in Samba Patì. Nell'almanacco abbiamo festeggiato la nascita delle regole del basket e subito Filippo del gruppo d'ascolto GBP Basket Milano saluta e ringrazia il signor Naismith per aver inventato simil disciplina sportiva che mette a repentaglio i loro legamenti. Vedete, abbiamo anche degli sportivi all'ascolto di Pane, Burro e Rock and Roll, cosa che ci fa sempre un po' strana, nel senso che Frick spesso e volentieri lo ricorda che lo sport non è contemplato dalla nostra religione, però siamo democratici e siamo contenti di avere all'ascolto anche dei veri sportivi. Un vero sportivo lo è anche lui, Carlo, il nostro tabaccaio di riferimento qui a Milano. Buona giornata, Carlo. Ciao, buona giornata anche a voi. Ormai sono abituati i radioascoltatori, abbiamo deciso che il lotto è rock. Okay, soprattutto bene, i numeri di Carlo che non escono. Oggi, perdonami Carlo, sono un po' imbarazzato perché dovrei comunicarti una cosa. Dimmi. Però un po' mi vergogno. Ma non preoccuparti. Nel senso che adesso alla lunga è tanto che facciamo questo intervento, no? È ormai ufficiale che i numeri che dai tu non escono. Appunto. Come è ufficiale che invece i numeri che da Carla un filo escono, eh? Sì, esatto. Io vorrei licenziarti, detto proprio così, in amicizia, perché noi rocker ce le diciamo in faccia le cose. Io ti licenzio, Carlo. Sì, tranquillo, guarda, provo volentieri, guarda, non voglio poi più continuare a far brutte figure. No, più che altro facciamo così, vediamo se Carla se la sente di darli lei, ma sì, se lei dai i numeri io prenderei quelli di Carla, senza offesa, No, tranquillo, anzi, approvo benissimo, visto che la fortunata in questo caso è sempre lei, perché io lo vedo, quindi. Tra l'altro l'hai anche proposta tu, quindi insomma sì, è sempre esatto. In famiglia. Poi magari ci sentiamo per vedere se sono usciti o no. Sì, certo. Intanto esatto. Però in onore dei vecchi tempi ti lascerei l'ultimo ambo. Sì, dai. Voi a casa, sì. Se vi va, segnatevi pure questi numeri che tanto non escono. Poi dopo daremo quelli di Carla. Esatto. mi sa che sbaglio a creare aspettativa sui numeri di Carlo, che poi metti che non escono neanche quelli. Ma più che altro che ne gioca talmente tanti incasinati uno più dell'altro, che posso dirti veramente. Vabbè, vediamo, poi cerchiamo Carla. Intanto diamo l'ambo di oggi, a cosa lo dedicavi? Dai, lo dedico a Marina di Genova, che ha smesso di fumare, visto che tutto sommato in questo periodo sono aumentate le sigarette. Quindi 10, che è l'aumento delle sigarette in centesimi che hanno avuto praticamente tutte, e 56 che sono le sigarette, insomma. Allora, l'ambo non vincente di Carlo il tabaccaio è 10,56. Esatto. Ho sempre sognato dirlo. Carlo, sei licenziato. Ok, ci sentiamo presto però, ciao. Va bene, ciao. Ma si possono trattare così i nostri inviati speciali, trattati come delle pezze da piedi? Che scandalo. No, Carlo, ti teniamo sott'occhio, però in questo martedì 15 di gennaio forse la nostra Carla darà i numeri vincenti, speriamo. E intanto perché non spararsi un bel AC/DC? You shook me all night long, it's a rock and roll party, baby.